Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ben ritrovati con il mondo della scuola e ben ritrovate alle nostre ospiti dalla settimana scorsa. Le ritroviamo la dottoressa Alessandra Fardin, presidente dell'associazione Vivere la cittadinanza, e la dottoressa Iola De Monte, ex insegnante, membro anche dell'associazione Genitori. Bentornate. Grazie per l'invito di nuovo, buongiorno. Ripartiamo dagli argomenti, dai temi dell'evento promosso dall'Associazione della Cittadinanza lo scorso dicembre, Play Music, consapevolezza e responsabilità nell'utilizzo dei nuovi media. Riprendiamo le fila, dottoressa De Monte. Sì, era rimasto in sospeso un po' il contenuto dell'intervento dell'avvocato Andrea Marco Ricci nella puntata precedente e anche il racconto della vita del cantautore compositore di musica Andrea Nardinocchi. Sugli aspetti tecnico-professionali e sui risvolti economico-normativi di come si realizzano le produzioni musicali, argomento che tra l'altro ha destato un grande interesse in sala, desidero chiedere alla dottoressa Fardin di far partecipi anche i radioascoltatori di ciò che i due esperti intervenuti hanno illustrato. Però a seguire le chiederei anche di fare un breve sunto su quali sono i risvolti problematici qualora i ragazzi vogliano scaricare musica illegalmente e anche far capire al pubblico che ascolta come si possa scaricare in modo legale. Infatti, come membro dell'associazione AGE, ritengo questa parte che è stata presentata nell'incontro del 5 dicembre molto interessante per un pubblico di genitori e di adulti e non solo per i giovani. Sì, ringrazio per questa domanda perché ci dà la possibilità di approfondire gli argomenti che sono stati introdotti nella puntata precedente. E quindi parliamo subito con il lavoro del creativo musicale. Argomento che è stato affrontato dall'avvocato Andrea Marco Ricci ed è stato molto importante perché ci ha esposto in modo chiaro e con aiuto di alcuni video il lavoro del creativo musicale. Ma molto, a mio avviso, molto importante e molto efficace è stato anche l'intervento di Andrea Nardinocchi, il giovane di talento in campo musicale che ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2013 con una sua originale composizione. Andrea Nardinocchi è un ragazzo eccezionale perché ha dimostrato in modo efficace con la sua presenza come sia possibile nella vita reale, impegnandosi, ottenere ottimi riconoscimenti e come sia possibile, in definitiva e soprattutto, affermarsi nella vita e quindi farcela. E questo, a mio avviso, è il più grande messaggio che noi possiamo trasmettere ai giovani studenti. Quindi, interagendo con il pubblico, l'avvocato Ricci ha introdotto l'argomento ponendo a loro diverse domande, quindi se alcuni di loro cantano, scrivono canzoni, poesie, eccetera, e avendo ottenuto una risposta affermativa, in questo modo ha potuto creare un legame con gli studenti. Quindi, calandosi nello specifico, ha spiegato come nella fine del Settecento ci si è interrogati su come si poteva in qualche modo consegnare e garantire uno stipendio ai creativi. Creativi in vari campi. Ecco, questo si è pensato che poteva essere una sorta di proprietà il lavoro creato dal creativo, quindi il lavoro musicale piuttosto che altri lavori, e poi ha usato una metafora che è stata quella della bicicletta e quindi ha detto: è un po' come se voi un giorno un vostro compagno, un vostro amico vi chiedesse: posso usare la vostra bicicletta? E voi siete liberi di dire no, non mi va, oppure potete dire sì, certo, la puoi usare gratis, oppure potete anche dire sì, ok, la usi oggi, però ti chiedo 5 euro. Ecco, questi 5 euro rappresentano un po' lo stipendio per l'uso della proprietà. Il diritto d'autore è esattamente questo. Quindi, volendo spiegare ai ragazzi che cosa fa un musicista di mestiere dalla mattina alla sera, la domanda è stata poi posta di nuovo al nostro musicista di talento, Andrea Nardinocchi, il quale ha detto che lui ha una vita abbastanza varia e soprattutto cerca di essere di cogliere il momento creativo nel momento in cui gli arriva, quindi può essere la sera, può essere il mattino, e quindi non è come un lavoro fisso in cui uno si reca in ufficio e per determinate ore pensa a delle cose. No, Lui dice: io devo essere sempre pronto ad accogliere qualsiasi stimolo che mi arriva anche dalla vita esterna, e devo essere pronto a registrarlo in un cellulare e correre a casa per usare il computer, oppure per usare altri strumenti più specifici che mi possono aiutare a creare queste basi musicali. Ecco, è molto importante quindi che questa vita così non canonica, non dettata agli orari fissi, abbia comunque un corrispettivo, e questo è proprio il lavoro che si il compenso per il lavoro del creativo musicale. C'è poi un altro fenomeno, il fenomeno della pirateria, e qua ci sono dei dati allarmanti che si sono stati detti. Allora, tra il 1999 e il 2009 c'è stato un calo del 73% nel mercato italiano intorno al mondo della musica, quindi con grande perdita anche dei posti di lavoro. Ecco, per informarvi un pochino su quelle che sono le metodologie illegali, o meglio i metodi illegali che vengono troppo spesso usati, vi posso dire che orientativamente esistono due filoni: l'uploading, che è l'operazione di caricamento di file in internet, e il downloading, che è l'operazione di scaricamento. Queste due operazioni sono fatte senza scopo di lucro normalmente, ma sono fatte senza chiedere il permesso. Per l'uploading è prevista una sanzione penale che va dai 51 euro ai 2.065 euro e per di più sporca la fedina penale. Mentre per quanto riguarda il downloading, questo è punito solo con una sanzione amministrativa economica che parte da 150 euro per arrivare ai 1.032 euro. Usando quindi dei file sharing, cioè delle condivisioni di file, dove l'utente corrispondente è spesso anche sconosciuto, prima di tutto non si ha certezza di quello che realmente si va a scaricare. Si può andare incontro anche a dei virus che possono entrare nel vostro computer. Terzo, si possono incontrare dei materiali brutti, materiali pedopornografici e altro, di cui preferirei anche non parlare. Su questo, che i giovani certamente conoscono meglio come argomento, ma gli adulti un po' meno, facciamo una pausa e poi torniamo insieme. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme questa puntata dal mondo della scuola che parla di nuovi mezzi di comunicazione. L'associazione Vive la Cittadinanza da alcuni anni propone incontri ai giovani e ai giovani studenti per renderli consapevoli e responsabili anche sull'uso di queste nuove tecnologie. Su questo si è incentrato un incontro lo scorso 5 dicembre. Alessandra Fardin, dovevamo chiudere il discorso del download illegale, ne abbiamo citato prima, ci sono anche dei metodi legali. Certo. Normati, diciamo. Come possiamo quindi ascoltare la musica in modo legale? Allora, ci sono diversi modi. Possiamo ascoltarla su YouTube, la sta pagando un inserzionista. Possiamo ascoltarla su iTunes, dove abbiamo la possibilità di pagare un euro per canzone e farne molti usi. Possiamo poi usare Spotify o Deezer, che sono dei metodi nuovi, particolari, che ci consentono di scaricare anche tutte le ultimissime novità, ci consentono di collegarci a vari sistemi come Facebook e altri, e ogni tanto viene fatta partire un po' di pubblicità, ed è questa pubblicità che sta pagando quell'utilizzo per voi. Ma quella pubblicità fa anche dare uno stipendio ai creativi. Ecco quello che si diceva, il pagamento, insomma uno stipendio per il diritto di proprietà e di creazione. Dottoressa De Monte, leghiamoci a questo perché poi un secondo intervento in quella giornata sì. È stato affidato ad un membro della Polizia Postale. Sì, il primo dirigente del compartimento Polizia Postale delle comunicazioni del Veneto, che ha presentato tramite due video la simulazione in un contesto virtuale di ciò che avviene quando i ragazzi nella vita reale usano talvolta imprudentemente i social network o quando postano filmati inerenti ad atti di bullismo di cui sono testimoni. O in alcuni casi addirittura parte attiva. Egli ha mostrato anche alcune slide che segnalano i rischi e gli effetti penali che derivano dallo scaricare non solo musica pirata, ma anche altri materiali illegali da internet. È impressionante comunque capire e osservare a quali pericoli vanno incontro i giovani e a quali conseguenze sul piano giuridico. Come membro dell'associazione AGE Genitori, per me è sconfortante sapere che forse molte famiglie sono all'oscuro delle ricadute che un cattivo uso dei nuovi media può avere, sia sulla vita presente dei ragazzi, sia su quella futura. Chiedo quindi alla dottoressa Fardin quali sono a suo avviso i messaggi più significativi consegnati dal funzionario della pubblica sicurezza al pubblico giovanile e come trasmetterli anche ai genitori. Allora, il dottor Palumbo ha trattato un primo argomento che riguarda i social network. E spiega che la polizia di Stato attualmente che si occupa delle comunicazioni si occupa particolarmente di prevenire i crimini nel mondo della comunicazione. Il mondo è cambiato moltissimo negli ultimi anni, come abbiamo già detto, e internet ci ha portato a pensare che ci sia un nuovo mondo, un mondo virtuale. E ci immaginiamo che ci sia un mondo diverso da quello normale, una sorta di vita alternativa. E per spiegare questo viene proiettato un video che esprime una modalità di contatto che potremmo avere anche con i social network, ma portato in una vita in un contesto reale. Allora, in questo video si vedono due amici. Allora, immaginatevi la scena. Un ragazzo apre la porta perché suona il campanello e si trova davanti un ragazzo come lui, un suo amico, ex amico, che con toni un po' concitati, un po' forti, un po' quindi esagerati, gli chiede: ciao, come stai? Ti ricordi noi? Ci siamo conosciuti al corso di matematica. Ma sì, davvero, lui risponde forse, ma come non ti ricordi? Vuoi essere mio amico? Vuoi diventare mio amico? Confermo, ognora. Sì, sì, certo, confermo. Oh, grande, ma ancora, dove ci siamo conosciuti? Eravamo a scuola. Vuoi saltare questo passaggio? E se invece diciamo che ci siamo conosciuti in barca, dove tu sai, ti ricordi, vomitavi tanto. Ma senti, c'è anche tua madre su internet. Oh, sì, mi sembra, ma non so, ma ecco. Balbettando cerca un attimo di capire che cosa gli sta dicendo questo ragazzo che sta alla porta. E questo insiste, dice: sì, diventiamo amici, posso così far vedere questi video tuoi a tua madre. E a quel punto l'imbarazzo di chi ha aperto la porta è totale. Ecco che questo video ci fa proprio capire come ci sono diversi modi di relazionarci se affrontiamo o se siamo di fronte a una persona vis-à-vis oppure se la vediamo in internet. E a questo proposito anche lo stesso Palumbo ricorda un po' un suo aneddoto e dice: anch'io ho nella mia vita passato diversi momenti in diverse parti, in diverse regioni d'Italia, quindi ho molti amici in diverse regioni, mi fa piacere usare Facebook e incontrare queste persone, dice. Però è chiaro che anch'io avverto un desiderio di farmi vedere in modo un po' esagerato tramite internet. Questo, dice, è una cosa assolutamente normale, succede a tutto. E se succede a me, che ho 47 anni, figuriamoci se non succede ai giovani. E poi ci fa vedere un altro video, un video che riguarda il cyberbullismo. E questo è un argomento di nuovo molto molto importante attualmente. E il dottor Palumbo ci spiega molto chiaramente che in realtà gli studenti che sono oggetto di cyberbullismo sia come vittime che come autori, in realtà sono gli artefici di alcuni episodi che avvenivano già 40, 50, 60, ma anche 70, 80 anni fa, quindi poco tempo fa. Solo che il veicolo non era internet. E quindi se un episodio di bullismo, naturalmente si ritiene non grave, avveniva fra i muri della scuola, questo poteva essere visto dai compagni, dai stretti compagni del gruppo, al massimo dal professore o dal preside. E tutto comunque rimaneva lì all'interno, venivano presi dei provvedimenti e probabilmente venivano chiamati i genitori. Oggi invece il problema è che questi episodi vengono spesso messi su internet e i genitori corrono preoccupatissimi, vengono da noi polizia e ci chiedono non solo una punizione per gli autori del cyberbullismo, ma ci chiedono addirittura la rimozione del video, cosa che davvero è impossibile. Noi non possiamo essere certi che qualcuno in qualsiasi posto del mondo non abbia archiviato quel file, anche se noi cercheremo di cancellarlo. E questo, in futuro, può creare dei problemi per il lavoro, per borse di studio, per altri ambiti della vita futura della persona che ne è oggetto. Grazie. Attenti dunque a quello che si pubblica e si condivide, perché ci si può ritorcere contro. Ultima pausa, ancora insieme su questo tema. Dal mondo della scuola. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. By far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for Ultima parte di questa puntata un po' tecnologica, un po' valoriale, diciamo, dal mondo della scuola insieme all'Associazione Vive la Cittadinanza, che ha promosso lo scorso dicembre un incontro con molti giovani studenti proprio sul tema dei nuovi mezzi di comunicazione. Ne stiamo facendo un ampio resoconto, arrivando adesso all'aspetto più strettamente informatico, con l'intervento del Presidente di AICA Nordest. AICA sta per Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico, e anche il dottor Giuliano Grillo, esperto di informatica. Dottoressa De Monte, tecnici, ma è importante sapere anche questi aspetti. Sì, anche quest'ultimo argomento si è rivelato per gli studenti utile a capire quali percorsi importanti potrebbero compiere nell'ambito scolastico, integrando la loro formazione per programmare meglio il loro futuro occupazionale, professionale. Chiedo alla dottoressa Fardin se ritiene di poter proporre non solo quelli precedenti come interventi, ma anche questi due ad un pubblico più ampio, che non preveda solo la presenza di studenti e docenti accompagnatori, ma anche della componente genitori, che ugualmente va orientata e resa consapevole delle opportunità formative da cogliere nel corso della vita scolastica dei loro figli. Inoltre, poiché nell'ambito del territorio nascono forme di aggregazione che mirano a promuovere la cittadinanza attiva e consapevole di tutte le componenti sociali a potenziare anche la formazione dei giovani, come è vista dalla vostra associazione Vivere la Cittadinanza, che lei rappresenta, la possibilità di realizzare in modo ottimale una rete che promuova un'azione congiunta fra scuola, istituzioni, mondo produttivo, gruppi di interesse sociale e genitoriale per raggiungere gli anzidetti fini che abbiamo appena citato? Sì, ringrazio per la domanda. Infatti rientra negli scopi della nostra associazione connettere i processi formativi delle diverse agenzie formative, genitori, scuola, con i processi formativi non formali della società. E questo ragionamento sta proprio alla base dell'organizzazione di tutti i nostri eventi. È fondamentale quindi, a mio avviso, poter leggere anche quest'ultimo intervento degli ingegneri Piva e Grillo proprio come possibilità per ampliare le conoscenze in campo informatico, non solo per i giovani, e noi adulti abbiamo la responsabilità comunque di educarli, di stargli vicino e di indirizzare quali sono le modalità più corrette per poter approcciarsi ad internet, ma anche proprio per la nostra conoscenza personale, perché internet è un mondo in evoluzione e quindi molti di noi molti aspetti ancora non li conoscono a fondo. Infatti, quanto è stato approntato ed esposto dall'ingegner Piva e dell'ingegner Grillo ci ha riservato non poco stupore. Abbiamo appreso dati reali, concreti, che la vita reale e pratica della conoscenza quotidiana dell'informatica comportano. Ci si chiede quindi perché è così importante saper conoscere l'informatica? Perché questa è presente in tutti gli ambiti ormai, quindi in casa, in ufficio, a scuola, sia per scopi ricreativi che per lavoro. E ogni strumento, è importante non dimenticarlo, è identificato con coordinate diverse da qualsiasi altro. Quindi ogni utilizzatore può essere controllato. Un uso non consapevole ci potrebbe quindi esporre a questioni di cui potremmo essere chiamati a rispondere anche davanti alla polizia. Possiamo conseguentemente essere esposti a commettere inconsapevolmente dei crimini. Crimini che possono essere in forma diretta, cioè quelli che noi possiamo commettere non usando in modo non conforme il nostro computer, e quelli indiretti, che avvengono quando noi permettiamo che vengano usati i nostri strumenti, i nostri dati, da altre persone. Allora, a questo proposito è stato proiettato un video che ci fa proprio vedere la differenza delle risposte, quindi un po' del pensiero, fra le persone che hanno la nostra età, e quindi i genitori, e i giovani. Le domande sono state queste: che cosa cerca sul muro? Che cosa c'è sul muro di casa di sua figlia? Il papà risponde: poster, poster anche la figlia, e fin qua tutto bene. Se dico share, a che cosa pensate? Ha dei programmi televisivi, dice la madre. Il ragazzo dice: a condividere foto, video, status. Altra domanda: quanti amici hai? Il padre: una decina. La figlia: 745. Altra domanda: mi darebbe il suo indirizzo? La madre: anche no. Il figlio: sì, certo, Giulio Bianchi. La figlia: saracarpi@hotmail.com. Domanda: se una pagina le piace, la madre risponde: la leggo. La figlia dice: clicco like. Se dico: oh, ma che cosa pensa? Alla mia casa. E la figlia: la home page. Ecco, questo fa capire come ci sia già una grande diversità di concetto, di pensiero dietro tutto il mondo di internet. Parlando poi ancora dei crimini, come è stato accennato prima, un crimine può essere cyberbullismo, che indica atti di bullismo, di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come email, messaggistica istantanea, eccetera, eccetera. Lo stalking, che è una modalità prodotta soprattutto da persone adulte, e anche questo è un termine inglese, che è qui inteso per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandole e generandole stati di ansia e di paura. C'è poi anche lo spamming, questo è uno dei più fastidiosi crimini indiretti, consiste nell'invio multiplo di email di varia natura a migliaia di persone, violando quindi la legge. Per quanto riguarda i percorsi per il futuro, l'ingegner Piva ci dà dei dati molto precisi. Ci dice che da una recente ricerca Eurostat, noi, specialmente i giovani italiani da 14 ai 23 anni, sono 8 punti percentuali indietro rispetto alla media europea e siamo il 20% indietro rispetto ai cittadini degli studenti del Nord Europa, Svezia, eccetera. Noi siamo a livello dei greci, sono più bravi di noi i rumeni, ma molto di più gli inglesi. Per quanto riguardano le ECDL, che ci riguardano da vicino, noi europei siamo stati bravi, perché pur essendo partiti nel mondo anglosassone molti ambiti come Apple, Microsoft, Twitter, Facebook, eccetera, in Europa abbiamo creato le ECDL, che sono ormai seguite e adottate in tutto il mondo. Ma l'ignoranza informatica ha un costo. Il tempo perso si è stimato sia in oltre 2 ore alla settimana, con una monetizzazione che ci porta a 2.500 euro all'anno di costo, denominato proprio costo dell'ignoranza informatica. Dei dati in America riportano a $3.400 questo costo e quindi pari a circa 2.500 ore di lavoro. Questi sono tutti i costi che le aziende e la pubblica amministrazione conoscono e quindi tendono ad assumere persone che siano certificate, per esempio BMW, Nokia, IKEA, Generali, Pirelli, ma anche le casse di risparmio locali, sono tutte aziende che ormai, siccome hanno sperimentato i valori delle certificazioni nel mondo del lavoro, assumono solo persone che sono certificate sia nell'informatica che nelle lingue. Vi ringrazio. Grazie dottoressa Fardin, il tempo purtroppo è sempre tiranno, allora ci diamo appuntamento a una prima occasione possibile appena si libera uno spazio in calendario, soprattutto per affrontare la questione della rete, del fare rete a livello sociale. Alessandra Fardin, Associazione Vive la Cittadinanza, e la professoressa Iola Del Monte, grazie per essere state con noi. Grazie a voi. Vi ringrazio e allora alla prossima volta. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.